salutiamo a, come si dice, in, a, in, a priori, a, pri, a printeriori, ad anterior, ad anterim. Salutiamo ad, salutiamo ad interim. Salutiamo ad anteriori quelli che ci ascolteranno nelle nostre differite, sia su Radio C Roma alle 17:30 di venerdì. 17. Alle 17 di venerdì sulle frequenze etere di 105.7, e poi ci ascolteranno sicuramente martedì nella nostra differita di Transizione di Fase, www.transizionedifase.org, un'altra web radio che salutiamo tanto, fatta di amici cari, alle ore 20. E noi cominciamo subito con una breve riflessione. Abbiamo iniziato con il Fondo Monetario Internazionale, perché insomma le notizie di questi giorni sono notizie, parliamo ovviamente degli aggiornamenti sulla questione greca, sono notizie che fanno un po' rabbrividire, o mi sbaglio, mister Leta? Fanno rabbrividire soprattutto visto quello che è successo. Allora, sostanzialmente ieri nella notte si è deciso che la Grecia non avrà più sovranità nazionale, verrà installata una commissione fatta da rappresentanti di Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale e Unione Europea per controllare come i soldi concessi a questo pseudo governo fantoccio greco verranno spesi. E infatti, con una precisione meravigliosa, lo stesso giorno, cioè oggi, il ministro dell'ambiente greco ha rilasciato un'intervista alla settimana al tedesco, visto che ormai Atene è provincia di Berlino, in cui diceva: non c'è bisogno di fare le elezioni, facciamole più in là, tanto ormai la sovranità popolare non c'è. Poi si leggeva anche in un curioso articolo che spulciavamo poco fa, che insomma c'era il cronista che in maniera abbastanza perniciosa ha fatto un calcolo dicendo: sono 130 milioni, 130 miliardi divisi per 11 milioni di abitanti greci fa 21 mila euro cada uno. Insomma, e questo sono un regalo che fanno i nostri cari Babbi Natale europei al popolo greco, e in cambio il popolo greco, dicevamo, gli dà il culo a questi Babbi Natali, non solo. La divisione, secondo me, il signor pernicioso cronista poteva farla anche in maniera più breve, anche perché secondo me magari questi soldi andassero proprio cada uno a 21.000 euro ciascuno. No, ho fatto che la divisione l'avete fatto per 2 o 3, non per 11 milioni, perché questi soldi comunque andranno a rimpinguare le casse di quelle che sono sia le banche, quelle 4 o 5 banche greche, ma in principio in modo molto più sostanzioso andranno a riempire quelli che sono i buchi lasciati nelle pance delle banche europee, sostanzialmente. Cioè, in sostanza, gli stati europei, questi grandi matador salvastati eccetera eccetera, superman, come vogliamo chiamarli, eroi se vogliamo, sostanzialmente stanno dando i soldi sole. Cioè, loro danno i soldi alla Grecia, ma solamente perché comunque la Grecia poi possa darli a loro, che oggi la percentuale che la Grecia deve dare a loro è molto di più di quella che avrebbe dovuto dare 6, 7, 8, 6, 7 mesi fa. Io specificherei una cosa, che il Gustavo mette la passione in questa trasmissione. Noi cerchiamo di razionalizzarla e portarla verso un obiettivo. La cosa che Gustavo dice giustamente. Grazie per l'inconcludente. Prego, prego Gustavo, il resto lo puoi tenere. Quello che dice Gustavo è essenzialmente esatto, l'importante è che noi i banchieri non se li danno soli. La cosa da sottolineare, che mi premeva sottolineare, è che è il Parlamento greco, e sono tutti i soldi che gli stati nazionali mettono in comune per far crescere questo clan di poteri forti internazionali che vengono dati alla Grecia per poi essere ridati a banchieri e a poteri forti di alcuni stati, in particolar modo Germania e Francia. Quindi siamo un po' dei cazzi male pigliati della Grecia, ce li abbiamo anche noi, insomma li diamo anche noi. Comunque io, prima di lasciare un pezzo così per un po' decifrare questo momento e poi riprendere la questione greca, io vorrei spiegare la tragedia del popolo greco con una semplice osservazione. Da domani i greci non potranno più chiamare l'acanto come lo chiamavano, ma dovranno chiamarlo Barensloi. Ci pare una cosa bella, moderna cosa bella, che è un greco che poi non ha nemmeno gli articolatori fonemici per fare quei versi strani. È pericoloso. Quindi, signor Peppe, sottolinea questa cosa. E un saluto anche va al cuore di Peppe Lange, alla mente della tradizione. Direzione sud, cercando l'altra strada che ci ha portato qui. Vedemmo Panciovilla e la rivoluzione ci disse non è morta, ci sono nuove idee. Siamo umani, siamo umani, non può andare così. Seduto incazzato anche con noi, mi scusa per la storia ma non generalizzare, le droghe, il gioco e il resto non piovono dal cielo, lo so non è progresso ma è una già l'idiozia. Siamo umani, siamo umani, non può andare così. Regalagli importanza che se ne porterà. Vedendo Panciovilla e la sua rivoluzione, sì, se non è morta, ci sono nuove idee. Siamo umani, siamo umani, non può andare così. Distruggere il mondo, chi comanda non dà spazio, ok? Cambia forza, la tua forza è deve entrare, c'è una sola strategia che sapere sempre più. Ah, e la tua rivoluzione comincerà con. John Cage. Tu sapevi che John Cage era un glorioso esperto di funghi? oltre ad essere... Ma in questo tu sei l'erede della scuola di John Cage, o sbaglio? Sì, anche nelle mie, diciamo, escursioni aerofaghe, diciamo, mattutine. Aerofagiche, sì, va bene, va bene. Aerofaggi. Se non sbaglio, il signor Leto vuole dire qualcosa. Ha qualcosa sul genio di John Cage? No. Comunque si parlava di Fondo Monetario Internazionale, si parlava di Grecia e dicevamo che comunque questa cosa non è un regalo, non è un regalo quello, questi 130 miliardi che stanno facendo ai greci, o no? No, è divertentissima questa cosa, ma soprattutto il calcolo che ha fatto quello del Corriere della Sera è geniale. 21.500 euro cada uno, sì, perfetto, benissimo, ma non basta prendere una calcolatrice e fare una divisione. Il problema fondamentale è che i greci, per avere questi 100 e rotti milioni che poi andranno, miliardi che poi andranno comunque destinati a pagare il debito, hanno dovuto rinunciare a ogni prospettiva di pensione e di lavoro e di stipendio, soprattutto decente. Insomma, la situazione giovanile è triste, è terrificante, e i greci avranno il 15% in meno del salario minimo, se gli va bene. Se gli va bene. Cioè, comunque di paesi che arrivano al 50% in meno in questo periodo. Hanno già il lavoro, che vanno giovani, non ho capito. Sì, in effetti la proposta che ti pagano anche per lavorare, dici tu, è già un passo in avanti. Mo, dici tu, nel mondo degli stage, in effetti, forse che ti pagano è anche una grande cosa. No, però, visto che i giovani se la passano benissimo, anche i vecchi, diciamo, stanno benissimo. Infatti il piano di rientro che ha elaborato Papadimos, che per chi non lo sapesse era nella Goldman Sachs e prima ancora era un esperto di funghi con John Cage, insomma, Papadimos ha avuto questa brillante idea di dire: vabbè, allora questi 150.000 dipendenti pubblici che ci facciamo fare? Beh, e allora prendiamo il prepensionamento e vai, per chi poi avesse la pensione, come diceva Guccini, la pensione è davvero importante, e allora facciamo così, e dunque tagliamoli di un bel po', sostanzialmente i tagli saranno del 40% per ogni pensione al di sopra dei 1.000 euro. In più, ovviamente, gli stessi stipendi del settore pubblico, perché insomma i dipendenti pubblici, lo diceva pure Brunetta, no? Il grande intellettuale Brunetta, sono dei nulla facenti, tagliamolo del 20%. Il bello è che adesso stanno parlando anche del fatto che oltre, ovviamente, alla riduzione di stipendio, il problema qual è? Che se tu riduci lo stipendio, e poi c'è una cosa in generale nella fiscalità di ogni paese, diciamo civile, tra virgolette, che si chiama imponibile, no? Ovvero sia che sotto una certa soglia il reddito non è imponibile, ovvero sia non ci sono delle tasse da pagare. Se tu abbassi tutti gli stipendi e tutti gli stipendi vanno sotto la soglia imponibile, no? E comunque loro non pagheranno delle tasse, e c'è questa cosa. E hanno abbassato la soglia dell'imponibile. A quanto? L'hanno abbassata, sostanzialmente, te lo dico subito, l'hanno abbassata dai 12.000 euro a 5.000 euro. E oggi leggevo che forse si vuole abbassare ulteriormente da questi 5.000 a 2.000. Cioè, 2.000, cioè vuol dire, cioè, tu se prendi 3.000 euro all'anno, no? E devi vivere comunque in maniera, no? E ti c'ha pagare pure i tasse su base di 3.000 euro all'anno, voglio dire, di reddito annuo, cioè totale, sta parlando di tutto, magari pure una rendita catastale che hai, magari tutto quanto, ci paghi pure i tassi, cioè è una cosa che cacci pure un 20%, 400 euro. Quindi questo è una cosa che mi veniva così, siccome stai facendo la riflessione sul taglio dei salari, sulle pensioni, sui prepensionamenti, che poi quando si parla di prepensionamenti si può anche specificare questo qua, e si parla di sostanzialmente una cassa integrazione, che però è una cassa integrazione che invece di coprire magari il 75, l'80% del salario originale, ne copre il 50. Cioè gente che magari prendeva lavorando 1.500-2.000 euro, c'è il caso degli operatori di un'azienda, se non mi sbaglio quella dei trasporti ferroviari, che appunto sono stati appunto, sono stati, qua è stato chiamato pacchetto di transizione volontarie, no? Sono stati forzati sostanzialmente a questa sorta di parcheggio con stipendio ridotto, e da 1.500-2.000 euro, ovviamente, come possiamo immaginare, ultra impegnati, come succede spesso nelle nostre famiglie, si trovano uno stipendio di 700-600 euro. Questa qua è una manovra molto drastica, appunto. Quindi, come dicevamo prima, questi sono i cartelli e i diktat che la Grecia sta osservando per poter avere il beneplacito di questi eroi, ovvero sia di questi paesi del Fondo Salva Stato, che stanno regalando alle famiglie greche 21.000 euro cada uno, cosa che invece in verità non è proprio così come ce la si racconta, diciamo così. Per questo, per cosa dire, direbbe qualcuno, questo per cosa dire? Questo per dire che in generale le manovre che sono state fatte anche nel passato, guardavamo un po' la storia, l'excursus storico delle manovre del Fondo Monetario Internazionale, per esempio, no? Giusto per capire, ti viene in mente qualcosa, qualche risultato positivo non lo so, del Fondo Monetario Internazionale in passato? E come non ricordare le grandi condizioni del 2000 in Argentina, le grandi condizioni dell'Eritrea, dell'Etiopia, dei paesi dell'Africa subsahariana, che stanno benissimo economicamente, no? E poi cosa c'è rimasto? Quali grandi successi? Ma chi devono ringraziare questi, l'Argentina nel 2000? Chi deve ringraziare? Chi è questa troica di cui stanno parlando? Come dicevamo prima, è stato proprio il Fondo Monetario Internazionale assieme alla Banca Mondiale, che, siccome è stato fatto apposta per evitare le crisi finanziarie, ecco, ha risollevato le condizioni dell'Argentina facendola fallire. Cioè, nel senso, dopo il fallimento, cioè, tu vieni, cara mia, sa bene tutto quanto l'Argentina. Insomma, ormai l'Argentina è in parte, ci sono per esempio tutte le montagne della Patagonia che sono sventrate da De Beers e compagnia cantanti, se vogliamo. Le nostre grandi multinazionali dell'oro, dei diamanti, eccetera, che inquinano. Per esempio, c'è un caso un paese in Patagonia, che non mi ricordo come si chiama, che ha tutte le falde acquifere inquinate da un veleno che serve per estrarre, che si usa nel raffinare l'oro. Questo qua è una cosa, è il cianuro. Durante la lavorazione dell'oro si utilizza il cianuro, e quindi belli morti, appunto. Belli. Ma comunque, per esempio, citavamo prima i quanti mila morti indiani. No, praticamente grazie alle manovre fatte dal Fondo Monetario Internazionale e dal WTO, perché, come dire, insomma, due assassini sono sempre meglio di uno, nel 2004 dei 16.000 contadini indiani sono suicidati, non riuscendo più a pagare i debiti contratti con le multinazionali dell'industria alimentare. D'altra parte, possiamo notare il fervore dell'apparato giudiziario indiano quando non molto tempo fa ha arrestato quell'economista indiano, come si chiama? Della microeconomia, Yunus, sì. Ha arrestato Yunus, sì, perché esercitava la sua professione di capo di una piccola serie di piccolissimi istituti finanziari, neanche istituti di microcredito, che servono a cercare di far sopravvivere le popolazioni della zona indiana e del Bangladesh, è stato arrestato perché esercitava, ben essendo molto al di là del limite pensionabile. Guarda te com'è strana la giustizia certe volte. E detto questo, siccome siamo ad un punto in cui stiamo parlando, abbiamo tirato fuori un sacco di carne, un sacco di abbiamo parlato molte volte di banche, io lancerei il prossimo pezzo, che si chiama Il crack delle banche di Ginevra Di Marco. S'affondano le mani nelle casse, crack! Si trovano sacchetti pieni d'oro, crack! E per governare come fare? Rubar, rubar, rubar, sempre rubare. S'affondano le mani nelle casse, crack! Si governator, sono tutti malfattor, ci rubano tutto quanto per farci da tutor. Noi siamo tre, ladri tutti e tre, che per aver rubato ci ha fatti i cugini del re. Noi siamo tre, ladri tutti e tre, che per aver rubato ci ha fatti i cugini del re. Noi siamo tre. Gesto plastico fluido dinamico di Peppe che ci annuncia che riprende banda armata, noi non possiamo che ringraziare tutti i nostri fervidi e militanti ascoltatori, no? Che ci ascoltano via web, quelli che sono su, che saranno domani su Radio Transizione di Fase 105.7 e su Radio Ciromo, ho detto sbagliato, venerdì alle 5, e quelli che sono su TDF, che sono martedì alle ore 20, www.transizionedifase.org. E questo era un esempio del combat balera, cioè una balera impegnata che tratta temi sociali, che rimane una balera, cioè un ballabile, direi. Sì, io vorrei esprimere nella prossima puntata le grandi sfumature anche del combat saltarello, perché in Piemonte è molto sentito questo. Spieghiamo il saltarello ai ragazzi che non conoscono. Saltarello è quella cosa, diciamo, che è la ghironda, è lo strumento privilegiato nell'utilizzo, cioè, proprio si sente che tipo per esempio le sonorità del Branduardi, del maestro Branduardi, ecco, ricordiamo dove eravamo rimasti prima col discorso e il discorso prima, la nostra bellissima canzone ci ricordava che quindi erano la responsabilità delle banche. Le banche, che non fosse altro per questo, abbiamo un governo pieno di banchieri, non è un caso che quindi le banche siano le prime a battere cassa. Battendo cassa hanno imposto loro, che sono i cosiddetti poteri, fanno parte dei poteri forti, hanno imposto un governo pieno di tecnici, specialisti, banchieri, di persone che sono fatte apposta per sanare. Sono, come dire, il nostro esercito personale di Gesù Cristo. Cioè, nel senso che arrivano e hanno per ciascuno una parola giusta, sanno le misure da fare, le riforme. Loro sono i riformatori, sono loro, quella botta di vita che ci voleva. Questa botta di vita se ne sono accorti i pensionati presenti e i futuri, quelli a cui hanno bloccato la pensione, anche la minima, volendo dire tutto, i futuri, cioè quelli che andranno in pensione dopo la morte, giusto appunto per ritornare al tema religioso, cioè della vita oltre la morte, la pensione è stata spostata nella zona dell'aldilà, quindi il paradiso sarà il luogo della nostra pensione per molti di noi giovani precari. C'è San Pietro che sta mettendo a posto le ultime carte, diciamo, per, esatto, fare, c'è, tipo, non c'è proprio l'INPS. c'è una cosa un po' diversa che... Di cui anche gli ultimi scandali che hanno colpito la Chiesa, si trattava anche questa qui di una manovra che, insieme alla manovra sulle pensioni, gli scandali sulla Chiesa servono, sono in questo clima di ristrutturazione dello Stato sociale, no? E detto questo, assistiamo ultimamente ad un altro tema che, secondo me, dà la chiave di quella che è la situazione che stiamo vivendo, quello è il tema dell'articolo 18. Che è dell'attacco all'articolo 18, cioè della volontà di modificare l'articolo 18 della Costituzione per lo statuto dei lavoratori, per far sì che coloro che sono che hanno quei pochi fortunati che hanno un lavoro dipendente possono essere licenziati quando qualora l'azienda si sente un po' in crisi, come dire, abbia un leggero mal di testa, no? Il lavoratore va a lavorare ogni giorno e poi l'azienda fa: no, oggi no, ho mal di testa, e quindi dice: vai a casa, sei licenziato, va bene. Questo è quello che vorrebbero che succedesse i vari la ministra Fornero e l'establishment di questo governo. Perché secondo me è importante questo punto? Perché attraverso non da ora i vari governi hanno seguito sempre le manovre di Confindustria, dei vari banchieri industriali, che imponevano, per salvaguardare i propri profitti, ai vari governi imponevano misure contro i lavoratori per limitare il loro enorme potere come discutevamo prima, la grande lobby dei tassisti, voglio dire, che la potenza di pressione dei lavoratori, che ormai ogni lavoratore addirittura vengono, come dicevamo prima, vengono anche pagati per lavorare, voglio dire. Quale lobby più potente di questa riesce ad affermare i suoi principi? Non è questo. Non riusciranno mai delle persone che prendono soldi senza lavorare a poter battere la grande massa di persone che prendono soldi per lavorare. Uno che lavora e prende soldi, cioè siamo proprio ad altissimi livelli. Il punto è quello che siamo in crisi tutti quanti, e loro dicono che siccome siamo tutti quanti in crisi, allora dobbiamo fare tutti i sacrifici. Salvo poi andare a vedere che in percentuale la grande parte del risanamento del debito pubblico che loro hanno come obiettivo viene pagata con i soldi di chi lavora, con i soldi di chi continua a indebitarsi, con i soldi di chi non può permettersi dei servizi perché li hanno tagliati. Questo è un dato che è allarmante, se pensiamo che è circa il 30% in più di famiglie si accendono nei mutui è aumentato del 30% delle famiglie che si aumentano mutui negli ultimi 10 anni. Negli ultimi 15 anni i licenziamenti sono aumentati del 15%, alla faccia del posto fisso. Oltre la disoccupazione giovanile al 30%, insomma c'è una situazione veramente di crisi. Ora il problema qual è? Il problema è che invece i grandi redditi, i grandi profitti, come le rendite finanziarie, cioè quelli che fanno miliardi spostando capitali da un posto all'altro, oppure perché nella lotteria dei grandi mercati finanziari, quelli che fanno soldi con i soldi, e loro con un milione guadagnano 100.000, come una grande lotteria. Oppure quelli che hanno grandi patrimoni, che quindi hanno grandi rendite, loro invece sono tassati semplicemente al 5%, quindi niente. Oppure sulle tasse sulle auto di lusso, sulle navi di lusso, il che sono anche benissimo aggirabili sotto alcuni profitti, alcune magagne che magari vi spiegheremo alla prossima puntata. Il punto è appunto questo, cioè l'uscita dalla crisi è pagata appunto da coloro che la crisi non l'hanno provocata. Invece i grandi banchieri, noi italiani dovremmo sapere bene, visto che noi abbiamo passato un momento in cui in Tangentopoli il nostro debito pubblico è decuplicato. Quindi la grande parte del debito pubblico è stato fatto da, come dire, banchieri, corruttori, quelle industrie che hanno speculato sugli incentivi statali, e basti pensare alla Fiat, il che è tutto dire se pensiamo al piano Marchionne, al piano di licenziamenti, il che è veramente tutto dire. Quindi lo scopo del gioco è quello di far pagare a noi una crisi che non ha provocato altri. Quindi è qui che secondo me c'è un quibus, è qui che noi dobbiamo pensare a che contro le logiche confindustriali, cioè, questa confindustria torna sempre, torna se parli di lavoratori, e quindi anche per noi studenti ci ricordiamo l'Aquis per tanti altri motivi. Ma infatti questo sarà oggetto, l'Aquis sarà oggetto dell'approfondimento della nostra rubrica oggi, no? C'era una volta l'università. Ma il punto è proprio questo: le pressioni di queste lobby, no? Di queste lobby che sono quelle dell'industriale, eccetera, eccetera, è una cosa che inizia a dare veramente, a essere davvero al di là della questione politica, della questione morale, della questione etica, nel senso che magari uno può dire vabbè, ma questo, ma quell'altro, diventa urticante proprio a pelle. Cioè, dobbiamo parlare di lavoro, dicevamo prima, parliamo di lavoro. Perché affossarsi sulla questione dell'articolo 18 proprio di Starduco? Perché loro non vorrebbero parlare di lavoro, loro vorrebbero fare una legge che tutto il suo vocabolario al posto di lavoro, cioè che tu vai alla lettera S, schiavitù, io devo essere chissà. Cioè loro vogliono questo, non vogliono dei lavoratori che fanno il loro lavoro, hanno il loro mestiere e quindi i loro diritti, no, loro vogliono degli schiavi da poter sottomettere quando e come gli vuole, magari anche da utilizzare per più lavori contemporaneamente. Cioè, perché che te ne fa che tu paghi ad uno, però poi lo paghi per fare il cameriere e magari non si rifiuta per esempio di lavare i piatti, perché tu lo paghi per fare il cameriere. Magari è monotono, insomma. È monotono, no? Come diceva. No, invece tu ti prendi uno schiavo che ti fa tutto. E questo è l'obiettivo. Perché è una cosa che dà un po'. In effetti devo dire che se ne rinasco, voglio rinascere con i sorti. È interessante come prospettiva il fatto che se tu vuoi i soldi puoi decidere quello che fanno, non solo quello che fai tu ma anche quello che fanno gli altri, capito? È bella sta cosa, eh? E il governo e i vari governi ascoltano, chiaramente non possono che reggersi il moccolo, diciamo. Esatto, a meno che non c'è gente incazzata che dire, fa qualcosa di diverso. E quindi, per dirla in breve, tutti questi nostri partiti si stanno preoccupando per il dopo Monti, no? Dici, no, ma come facciamo? Noi dobbiamo rinnovarci, non riusciamo più ad arrivare così con le nostre, queste vecchie forme partito, non riusciranno più a sopravvivere dopo la grande violenza e il vigore delle manovre di Monti. Come facciamo a riformarci? Glielo possiamo dare noi un aiuto. Andiamo una volta che diciamo, invece di fare le elezioni, le prossime, no? Proprio il giorno che c'è, il giorno tot si vota, no? Noi invece di fare le elezioni, ce ne andiamo tutti quanti a Montecitorio, due suede, e la chiappiamo a cauci in giuculo e ne cacciamo fuori. Dice, okay, e poi prendiamo i primi, cioè prima di fare tutto quanto, prendiamo i primi 400 stronzi che ci vengono davanti in mezzo alla strada e mi rendiamo in giuculo in Parlamento. Dice, mo facete tre leggi così ad occhio, come? Il cosiddetto governo tecnico. E facciamo governo. E poi io ho detto questo, c'è un eco, sento un eco, no Peppe? E questo è quello che diciamo al mondo. E mo basta veramente però! Mo basta veramente però! Il nuovo capolavoro di Bruno Liegi, Baston Liegi. Questa era l'introduzione al prossimo pezzo, vai Peppe. Mi ricordo una missione un po' speciale, Genova 2001, vertice mondiale. Sono un poliziotto del reparto celere, pronto alla guerra, ma più che una battaglia strada sembra un carnevale. Tutti questi pacifisti del cazzo che si fanno chiamare popolo di Seattle, massa di straccioni con bandiere a covaleni che solo a guardarli in faccia già divento paonazzo. Sono 300.000 e vogliono cambiare il mondo e pensano che per cambiare basta un giro tondo. Io non so nemmeno chi ha ragione e chi ha torto, ma puoi vedere che a sto giro qui ci scappa il mondo. Ognuno sceglie la sua forma di protesta, c'è chi ha steso fili di mutande fuori alla finestra, c'è chi vuole oltrepassare la zona rossa, c'è chi canta avanti popolo alla riscossa. ricordo una missione un po' speciale. Genova 2001, squilla cellulare. Con la suoneria di faccetta nera. Sono fascista, non credo sia una cosa di cui mi debba vergognare. Zitti e parassiti e comunisti. Ci mancava pure quella banda di teppisti. Con la tuta nera e il passamontagna in testa. Con le spranghe fanno a pezzi tutto e ci rovinano la festa. Parte la carica, voi ve la date a gambe. Temete il mandanello, la pallottola vagante. Tutte bianche, si tinguono di sangue, sudore, lacrimogeni sparati sulla gente. Tu che ti rifugi nel cortile, prenderai più botte che se fossi nato in Cile. La Costituzione come cartigenica, usala per pulirti il culo o tamponarti le pelle. Siamo a Bolzanetto. 1, 2, 3, viva, viva, viva, 6, 4, 5, 6, forse in te non parlerei. 7, 8, 9, il negretto non commuove. È morto solo uno, ma potevano essere 100. I mandanti del massacro sono ancora in Parlamento. Ecco a voi, signore e signori, una nuova avvincente approfonditura della questione universitaria. Vai Peppe. C'era una volta l'università, dove scorgava libero e felice tutto il sapere del mondo. Brutto giorno baroni banchieri, rettori ordinari si nascosero in un cespuglietto nei pressi della fonte. E mentre il povero studente si apprestava ad abbeverarsi alla fonte del sapere, ministri, professori saltarono fuori e fecero un salboccone. C'era una volta l'università, la rubrica di approfondimento universitario che stavate aspettando. Ecco, e oggi nella nostra carissima rubrica di C'era una volta l'università faremo un approfondimento, diciamo, più nuovo per modo di dire. Insomma, parliamo più o meno del marzo del 2008. Va agli inizi di questi 3-4 anni caldissimi che ci hanno visto protagonisti, insomma. Gli studenti, gli universitari, gli studenti medi di queste di questi tumulti. Ed era il marzo del 2008 quando si affacciava al mondo, diciamo, la nostra, una delle piccole, diciamo, se vogliamo, lobby in franchising, ecco, insomma, quei satelliti che ogni tanto le lobby, quelle più grandi, insomma, fanno nel momento in cui devono occuparsi di qualcosa in particolare. E all'epoca questa lobby era il comparto universitario della lobby grande, quelle che qualcuno chiamò, facciamo solo dei riferimenti vaghi chiaramente, le lobby buone. Le lobby buone, esattamente. E queste qua, questo satellite, diciamo, all'epoca si chiamava AQUIS, che era l'Associazione per le Università Virtuose Italiane, no? Per la qualità del sistema universitario. E in questa associazione c'erano nel momento della sua fondazione 13 rettori, tra cui ovviamente il nostro caro La Torre. Ma il punto non è chi fosse proprio all'interno, il punto è da dove nasce il progetto AQUIS. Il progetto AQUIS nasce dal lontano 99. processo di Bologna, che approfondiremo ovviamente in un'altra puntata, che insomma è un caposaldo di tutta la ristrutturazione del sistema della formazione europeo. E da lì sono iniziate, dal 2003 sono iniziate, dal 99 il processo di Bologna, poi 2003 sono iniziate le pressioni di Confindustria. Ci sono degli articoli appunto di quel periodo che mostrano come la Confindustria volesse comunque in qualche modo iniziare ad avere più voce in capitolo nella questione delle ricerche, nella questione appunto del mondo dell'università. Effettivamente il modello a cui ci si ispirava era quello là, anglosassone, se vogliamo, ovvero sia in cui le università sono sostanzialmente rette dalle corporazioni, che hanno i loro bei dipartimenti di ricerca cofinanziati, diciamo così, dallo Stato, per cui una ricerca sullo spazzolino della Mentadent, per esempio, viene cofinanziata dallo Stato, e quindi la Mentadent paga magari un 30% della ricerca e il resto lo paga l'università. E questo, diciamo, è stato tradotto in italiano con il termine molto italiano spin-off, giusto? Questo in attestazione, io volevo semplicemente essere da supporto a Gustavo nel riportare quello che abbiamo detto pure nella scorsa puntata della rubrica C'era una volta l'università, che è una citazione di quello che ha fatto la riforma madre, la prima riforma dell'89, Roberti, che diceva appunto che il prodotto laureato non è conforme al mercato del lavoro. Appunto per dire a quei faziosi che dicevano: ma cosa c'entra la Confindustria con l'università? Che c'entra. Infatti, dopo queste idee ci sono stati vari tavoli. Nel 2006 si è, guarda caso, proprio nei momenti in cui c'erano le cruciali riforme, no? E il 2003 la Moratti, eccetera, eccetera. Loro però, quelli dell'Aquis, avevano un fardello preciso da portare avanti, ovvero sia premiare quelle università che avessero nel loro, diciamo, DNA una particolare propendenza verso il rigore di bilancio. Sostanzialmente l'università pubblica e il pubblico in generale prima sia... lungi da noi voler affermare la cristallinità e la purezza delle amministrazioni pubbliche, questo non è il nostro compito, non lo faremo mai, però il punto è questo, che il primo punto di un'organizzazione pubblica è quella di fornire il servizio, anche perché, voglio dire, del bilancio non se ne fotte mai nessuno un cavolo, e quindi il punto è che una struttura che perde acqua da tutte le parti come quella pubblica poco è appetibile gestione aziendale, come più spesso si è detto in questi 4 anni di movimenti studenteschi, eccetera eccetera. La accuratezza di bilancio è venuta appunto con la legge, prima con la legge 133 e poi con la legge 180. Guarda caso queste leggi sono state fatte la prima, la legge 133, e la seconda, la legge 180, nei 4 mesi a valle dell'estate del 2008. Una lobby molto efficiente. Infatti questi 13 atenei erano i 13 atenei che dicevano: guardate che le università italiane non sono tutte uguali, guardate che le università italiane ci sono gli spreconi, ci sono quelli che comunque non gestiscono bene il loro patrimonio, non gestiscono... invece noi siamo quelle buone, noi siamo quelle che funzionano, siamo quelle che spendiamo il meno del 90% del nostro fondo di funzionamento ordinario in stipendi. Questo è un criterio che viene utilizzato sempre nella gestione aziendale, è un criterio che serve, diciamo, a far quadrare i conti di un'azienda. Questo criterio, guarda caso, è stato più volte chiamato in causa da Confindustria negli anni precedenti, poi fatto tuonare da questa grande lobby, è riportato in calce la legge 133, la finanziaria del 2008, e inizia a farsi strada questo criterio, ovvero sia queste le università che hanno allora prima togliamo i soldi a tutti quanti e poi rifinanzieremo solo quelle là. data all'entrata violenta e anche vigorosa delle varie aziende, azienducole, dalla più piccola alla più grande, dalla multinazionale all'azienda locale, nelle nostre università. In sostanza, depauperando di fatto quelle che erano le casse delle nostre università e legandole a dei criteri che sono sostanzialmente propri di una gestione aziendale. Quello che succede oggi è che la maggior parte delle ricerche, se non trovano finanziamenti esterni da quelle che sono i fondi, diciamo, di funzionamento ordinario, che in generale venivano erogati anche per finanziare i dipartimenti, se non trovano fondi esterni e quindi se non trovano delle aziende interessate alle loro ricerche, non riescono a ricercare. Non riescono a ricercare, e questo cosa vuol dire? Che le sole ricerche che vengono finanziate, e oggi sta diventando tristemente realtà questa cosa, quello che dicevamo nei primi movimenti del 2008 si sta concretizzando sotto i nostri occhi, le uniche ricerche che vengono finanziate sono quelle là che fanno direttamente cassa, quelle là che sono ricerche applicate per la maggior parte, ovvero sia quelle direttamente sul prodotto finito, quelle che portano alla fine della ricerca ad un prodotto velocemente commercializzabile. E questo era il grande progetto della Confindustria, questo era il grande progetto di tutte le lobby delle multinazionali europee, e questo era il progetto portato avanti dall'Aquis. I portatori di questo progetto sostanzialmente sono stati i rettori dell'Università della Calabria, il rettore all'epoca dell'Università di Padova, come dicevamo, che alla fine del suo discorso disse: queste cose le dobbiamo non possiamo farle direttamente noi rettori, ma le dobbiamo chiederle al governo, perché non può essere il tacchino a preparare la cena del ringraziamento, sostanzialmente. Quindi diciamo che il tacchino siamo noi, nel senso che le università non potevano. In verità diciamo che ci sono riusciti, perché in verità sostanzialmente anche nell'ultimo anno sono proprio le università che si stanno cuocendo da sole. Anche se consideriamo il fatto che la separazione di un fronte di lotta, nel senso che comunque non che i rettori abbiano mai fatto qualcosa, abbiano lottato per qualcosa se non per il loro tornaconto personale, però insomma la separazione nella divisione tra i bravi e i cattivi in questo senso ha aiutato molto nell'adempimento di tutte quelle che sono state, l'adeguamento sono state di tutte quelle che sono state le manovre portate avanti dai vari governi contro l'università. Comunque, prima di chiudere, voi ricordate come si chiama il rettore dell'Università di Torino che adesso è diventato ministro? C'è un odore strano. Senti questo profumo. Profumo, no? Ecco, anche lui era nell'Aquis. Vai, Peppe. We'll be right back. Ecco qui, noi ci siamo, voi ci siete? Ci siete? Ready? E andiamo con la nostra rassegna stramba. Vai. Abbate, dica, banda Abbate, dove? Rassegna stramba, il tappeto sonoro di Luca Abbate. Salve, buonasera a tutti. Dunque, io prima di iniziare faccio una richiesta all'Abbate, che ha abbandonato il suo ruolo della rassegna stramba temporaneamente. Io non ti posso sostituire fino alla fine. Luca, torna per favore, torna tra noi. Allora, vabbè, dopo questa richiesta fatta a Luca, cerchiamo di fare un riassunto delle notizie così più quelle più scottanti. Vabbè, la prima riguarda i ricercatori, quindi i ricercatori tornano a farsi sentire tramite l'associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiana, la quale denuncia il contenuto del decreto semplificazioni in materia di università. L'università italiana è al collasso. Non solo la ricerca ai minimi storici come finanziamento, ma manca ormai anche il personale per fare lezione. Sì, perché a quanto pare il ministro dell'istruzione, invece di prevedere lo sbocco del turnover e cominciare un reclutamento serio, diciamo, preferisce coprire i corsi con contratti indecenti a paga irrisoria. Ricordiamo che la tradizione del passato vedeva in molti casi compensi simbolici di circa un euro a corso. Appunto, lo denuncia questa associazione di dottorandi e dottorati di ricerca in tutta l'Italia, riferendosi a quanto previsto dal decreto per la semplificazione in materia di università. Samuele vuole aggiungere qualcosa? Questi dottorati, questi dottorandi, cioè, sono famosi anche per essere sfruttati, ma giustamente quando Regina diceva che tornano a far sentire, noi ci stavamo ponendo qui dietro le quinte, ma quando mai si sono fatti sentire? Noi siamo 3 anni che facciamo cose all'università. No, lascia stare, che loro ci sono fatti sentire, hanno detto a gran voce una cosa: a noi ne piace e li piace, senza che fanno pavecate, li piace. Piaceteci. Dunque, dai ricercatori passiamo alla regione. Sanità. A quanto pare il nostro amatissimo governatore fa bidone all'interrogatorio, e quindi per quanto riguarda diciamo il processo nell'ultimo periodo diciamo che pochi mesi fa il nostro governatore fu preso è stato indagato dalla procura di Catanzaro in qualità di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro della sanità, e quindi per il reato di tentato abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio riguarda tre vicende che si intrecciano. Gustavo, tu volevi intervenire? No, nel senso che loro lo chiamano processo, è normale che lui non ci vada. Lui è uno dei governatori più belli d'Italia, non ho capito? Quindi pro bello, no processo. Ovviamente come insegna il grandissimo Berlusconi, cioè, voglio dire, così bisogna fare. Per impegni politici non è potuto andare. Comunque, torniamo al reato di tentato abuso d'ufficio. Da dove viene fuori? Viene fuori da tre vicende che si intrecciano. Vicende legate al patto di legislatura tra Regione Calabria e AIOP, l'associazione dell'ospedalità privata, stipulato nell'agosto 2010. L'altra vicenda è il protocollo d'intesa tra Regione e Università Magna Grecia di Catanzaro, che viene fuori dal dicembre 2010. E il terzo è il regolamento attuativo per l'autorizzazione al funzionamento dell'accreditamento dei centri socio-riabilitativi, e siamo nell'aprile 2011. Atti che, scopelliti con il concorso diversamente articolato dei suoi collaboratori, assunto quale presidente della regione, quindi. Ma la sanità in realtà in Calabria è commissariata, e dunque ogni cosa che comporti la spesa di un solo euro, diciamo, compete al commissario. A quanto pare il nostro amatissimo governatore Scopelliti, firmando gli atti, si è accorto che indossava un abito sbagliato da quello che è, e quindi si è un po' confuso, diciamo così. Andiamo avanti. Per quanto riguarda sempre il nostro amatissimo, in questo caso mi viene da dire povero governatore, perché dobbiamo sapere che la lista delle tarantelle di Scopelliti è lunga. Ecco, qua risponde a un altro attacco. Stiamo parlando del processo Meta, quindi il giorno nero del governatore. Dice: mi sento umiliato, povero. Alle accuse che provengono direttamente dal processo Meta, ricordiamo che il processo Meta riguarda, diciamo, gli intrighi tra criminalità, imprenditoria e potere politico nel Regino, dove durante l'ultima udienza l'ex colonnello del ROS ha indicato l'ex sindaco attuale, cioè attuale governatore, come persona vicina alle lobby politico-mafiosa che gestiva gli appalti nel comune di Reggio. Quindi, povero, tanta solidarietà a Scopelliti. Questo era il colonnello dei? Del Ross. Che era il Ross? Io per esprimere la nostra solidarietà, vorrei tanto fare un gesto che spero che mi permetteranno di fare. Per esprimere la nostra solidarietà vorrei portare le arance a Scopelliti quando sarà in galera. E detto questo vorrei che passi un pezzo, Peppo, vai. C'è qualcuno che conosce il CCCP? Bene, questa la suoniamo per voi. Pronto, pronto, pronto. Questa qui è base P2 occupata. Citando la nostra piattaforma a memoria, direi che questi sono gli ultimi 10 metri liberi del ponte. E detto questo, continuiamo la nostra rassegna stramba. Continuiamo parlando di rifiuti, una cosa importante in Calabria, una cosa per cui noi ci siamo battuti non poco in quest'ultima stagione politica, una cosa che come rete abbiamo sollevato diverse volte, e quindi torniamo arriviamo virtualmente alla discarica che già noi bloccammo un anno fa. E la discarica di Pianopoli, una bella notizia importante, una grande novità è che è stata arrestata e sequestrata una discarica una discarica di proprietà della figlia del sindaco di Pianopoli, Cuda, noto imprenditore tra virgolette, che gestisce diversi settori non proprio in maniera chiara secondo la magistratura. E cosa hanno trovato questi carabinieri del NOI, il nucleo investigativo per l'ecologia? Hanno trovato rifiuti speciali di diverso tipo, oltre ai quali liquami industriali di provenienza esclusivamente ignota, rifiuti speciali tipo batterie, munizie varie, che vi lascio immaginare che bello effetto faranno in quel di Catanzaro, e hanno trovato anche, come dire, dei liquami che ancora non sono riusciti bene a definire. Questo è per dire di come poi la figlia del sindaco di Pianopoli, dove si è situata una delle più grandi discariche in Calabria, che smaltisce una parte non marginale dei rifiuti che vengono prodotti in Calabria, e di come l'asse, i collegamenti che noi abbiamo più volte denunciato tra istituzioni e malavita siano confermati, e questo rimane un tema scottante, un tema molto caldo. E detto questo, passo alla per la prossima notizia al signor Luca. Grazie Luca, aiuto, torna presto. Allora, tornando sempre nel Reggino, no? Si parlava di appalti prima, delle tarantelle con gli appalti dell'ex sindaco, attuale governatore della Calabria. Quindi, a quanto pare ci sono 16 indagati nel Reggino. Appalti ATERP e ditte dei clan sono nel mirino. 16 avvisi di garanzia per il reato di associazione mafiosa, intestazione fraudolenta, diciamo, di valori, corruzione e falso ideologico, sono stati notificati persone tra cui 5 funzionari tecnici dell'ATERP di Reggio Calabria, nonché dei titolari di 10 aziende nel Reggino nell'ambito di un'inchiesta su possibili infiltrazioni mafiose negli appalti dell'ente. Sono in corso accertamenti per verificare se i preventivi di spesa relativi ai lavori, guarda caso, siano stati un po' così gonfiati al fine di far conseguire un più ampio margine di guadagno alle ditte interessate. È la classica. Ma quindi il Scopelliti non è secondo soltanto il governatore più sexy, il politico più sexy europeo secondo i sondaggi, è anche uno dei politici più indagati dell'Europa, no? Oh, non basterebbero trasmissioni di radio per parlare di Scopelliti e delle sue liste di tarantelle varie, diciamo. Cosa fa l'invidia, voglio dire, no? Dunque, andiamo avanti alla prossima notizia. Andiamo a Morano Calabro. A quanto pare alcuni disoccupati hanno occupato il municipio di Morano Calabro. Andiamo a vedere perché. Un gruppo di disoccupati quindi ha occupato il municipio di Morano Calabro come segno di protesta per il forte problema occupazionale che interessa l'intero territorio comunale. La decisione è scaturita da una affollata assemblea pubblica tenutasi ieri nella sala convegni, tema all'ordine del giorno, la situazione occupazionale nell'antico centro del Pollino. Il blocco, diciamo, della macchina amministrativa comunale, con garanzia dei servizi essenziali, si prolungherà sin quando non perverranno al comitato risposte efficaci. A quanto pare la vicenda ruota essenzialmente sui lavori di ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria, nella fattispecie del tronco Morano-Campotenese, dove i disoccupati rivendicano il diritto, peraltro più volte sottolineato nei diversi protocolli d'intesa, ad essere impiegati. Per primi e con un piano di assunzione trasparente e coerente alle aspettative della comunità. E dunque, andiamo a lanciare... Per la serie Come trasformare un'infrastruttura in welfare. A proposito di operai, andiamo a vedere, arrende praticamente la crisi, ecco, sta facendo... Gustavo prima diceva che dovremmo progettare tetti più consistenti, perché a Rende il 17 febbraio c'è stata una protesta degli operai che sono saliti sul tetto dell'azienda. Stiamo parlando dell'azienda Smeco, la società che si occupa della depurazione in provincia di Cosenza. Una sessantina di operai praticamente stanno lamentando il mancato pagamento degli stipendi da 5 mesi, e quindi hanno protestato salendo sul tetto dell'azienda di Rende. Non è la prima volta che danno luogo a proteste eclatanti, e qualcuno di loro dicono, insomma, che il cittadino paga le tasse di depurazione ma i soldi non vengono dati a chi fa il servizio, non abbiamo, quindi se la prendo in sostanza con le amministrazioni che non pagano. Non abbiamo, noi dice, abbiamo svolto sempre il nostro mestiere, ma c'è crisi, il governo non ha soldi. C'è crisi, regina, hai finito. Io vorrei chiamare un intervento importante, che ci è pervenuto un RVM. La benzina è aumentata ancora, a me che cazzo me ne frega, me, io c'ho il diesel. Banda Bata è finita, a presto. Abbate, dica! Banda Abate, dove? Rassegna Stramba, il tappeto sonoro di Luca Abate. Che gesticola con le armi, e tra i nuovi santi illuminati al neo sta nascendo un nuovo tipo di ideale, quello Yankee tipo fatelo da voi. E tra scioperi d'autonoma estrazione lo studente che si interroga da sé sta covando forse la rivoluzione, mentre la signora bene prende il tè. Corporizzato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è. Corporizzato, ed intanto farà il colpo del caffè. L'altra sera ha detto la televisione, studenti incriminati che si rafforzerà la polizia, perché ha concluso infine il capo protezione. Beh, non vorrei che poi colpissero anche me. Si è accettata la provenienza del scelte, tu che fingi poi di aver paura. L'ignoranza è nelle cose che non sai, e cerca insomma tu di farti una cultura, e giù libri legati e letti mani. Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è. Colpo di Stato, metti la benzina e il colpo prende a te. E c'è chi fa l'estremista per prudenza, chi comanda rappresaglie e lui non c'è, chi riempie di farina la credenza, chi fa guerra blaterando nei caffè. Poi c'è chi cercando la rivoluzione ha trovato infine le comodità, chi confonde il pranzo con la colazione, chi confonde la salute con l'età. E da migliaia d'anni non cambia la storia, Giulio Cesare cavù testa pelata, e il copione ormai lo sanno tutti a memoria, e la solita non cambia la menata. Colpo di Stato, ma che colpo che lo Stato qui non c'è. aspetta, vengo insieme a te.